Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare il documentario Nazrin di Jeff Kaufman dal 10 maggio on demand su OpenDDB e si spera presto in sala. Luigi, ben trovato. Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Di cosa si parla? È un documentario a cui teniamo molto, abbiamo lavorato diversi mesi per riuscire a portarlo in Italia. Prodotto nel 2020 per la regia di Jeff Kaufman, Nazrin è stato girato segretamente in Iran da donne e uomini che hanno rischiato l'arresto per realizzare questo film. Si tratta di un ritratto immersivo dell'attivista e avvocata per i diritti umani e prigioniera politica Nazrin Sotoudeh e del movimento per i diritti delle donne iraniane. Nei tribunali e per le strade Nazrin ha combattuto a lungo per i diritti delle donne, dei bambini, delle minoranze religiose, dei giornalisti e in generale di tutte quelle persone condannate a morte. Proprio durante le riprese del film Nazrin è stata arrestata nel giugno del 2018 in quanto in quel frangente rappresentava le donne che protestavano contro la legge sull'hijab obbligatorio in Iran. È stata condannata a 38 anni di prigione e 148 frustate. Si tratta quindi di un racconto assolutamente necessario, di una storia potentissima, tra l'altro insomma con la partecipazione di personalità decisamente importanti come l'acclamato regista Jafar Panahi, il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi e la giornalista americana Ann Curry, tra l'altro narrato dall'attrice vincitrice dei premi Oscar Olivia Colman. Si tratta di un film molto molto potente che racconta una storia che credo meriti l'attenzione di tutto il mondo e quindi per noi come di OpenDDB, come tante volte capita, si tratta di un film in cui riusciamo diciamo a coniugare da un lato la necessità di raccontare storie come quella di Nazrin alle potenzialità che documentari di questo tipo hanno nel provare anche diciamo a instillare dei cambiamenti. In questo ci auguriamo che attraverso la nostra campagna di comunicazione porteremo intanto la storia di Nazrin al maggior numero di persone possibili anche in Italia, anche perché questo film d'altronde come molti film usciti nel 2020 ha visto pochissimo la sala, in Italia è praticamente inedito e tra l'altro insomma ha ricevuto giusto qualche giorno fa il patrocinio ufficiale di Amnesty International Italia che appunto lo ha definito un documentario assolutamente necessario. Cos'altro sappiamo? Nazrin Sotoudeh è una figura già ampiamente conosciuta da anni proprio grazie al suo attivismo politico. Di fatto questo documentario va a ripercorrere un po' la sua vita grazie anche alla testimonianza di suo marito Reza Khandan, che appunto nel film prova a ripercorrere un po' anche quella che è la loro storia ma anche quella che è la storia di Nazrin, che inizialmente comincia la sua carriera come impiegata in banca e poi inizia a scrivere per diversi giornali, per diverse riviste con nomi diversi proprio sulla violazione dei diritti umani e dei diritti delle donne. È stata arrestata nel giugno del 2018 dopo diverse detenzioni che già l'avevano interessata e anche oggi che Nazrin si trova in carcere e secondo quanto dice la legge iraniana dovrà scontare almeno 12 anni di prigione. Anche oggi dal carcere Nazrin continua a lottare, continua a tenere la testa alta, basti pensare che appunto lo scorso anno ha lanciato uno sciopero della fame per protestare contro le cattive condizioni di detenzione e di salute e naturalmente anche il rischio di Covid-19 nelle prigioni iraniane. Tra l'altro vi segnalo insomma per chi volesse iniziare anche a saperne un po' di più sulla storia di Nazrin ma anche sull'attualità, su quello che succede in queste settimane. Abbiamo da pochi giorni pubblicato un articolo sul blog di OpenDDB, quindi invito tutti e tutte a andarvelo a cercare sul sito, che è sostanzialmente una testimonianza di suo marito, di Reza Khandan, di una visita qualsiasi, tra virgolette, che ha fatto nel carcere che si trova alla periferia di Teheran e in cui va a raccontare in maniera molto, direi, diretta e incisiva quelle che sono le terribili condizioni di detenzione che vanno a interessare in particolare le detenute, visto che parliamo di un carcere femminile. Quindi un po' io l'invito che faccio a tutti e tutte è di guardarvi il film. Poi, come dicevi in apertura, insomma, il nostro obiettivo è quello di avere una distribuzione più ampia possibile, quindi sicuramente attraverso lo streaming e il VOD. Appunto, il film è già disponibile dal 10 maggio, ma il nostro obiettivo, come sempre, visto che da ora è di nuovo possibile farlo, è portarlo in sala ovunque, magari accompagnandolo da dibattiti, da quello che io penso sia poi, insomma, anche la potenza di fare delle proiezioni, di guardare un film collettivamente, di critica al presente, insomma, e possibilmente di passare anche all'azione. Nonostante la pandemia, ha avuto delle uscite internazionali? Sì, in particolare ha partecipato a diversi festival in Italia. Ha partecipato lo scorso anno al Festival Internazionale Cinema e Donne di Firenze, tra l'altro vincendo l'award come miglior documentario, e poi ha girato diversi festival negli Stati Uniti, molto molto, insomma, importanti e conosciuti, come il Doc New York City 2020, Boston Globe Docs, Denver Film Fest, insomma, così come il Festival del Cinema e dei Diritti Umani di Parigi nel 2021, e sta continuando, insomma, questo giro. Come dicevo, è praticamente inedito in Italia, quindi ce la metteremo tutta per riuscire a portarlo anche in sala, perché è un film, è una storia che assolutamente merita. E appunto, tra l'altro, all'interno di questo documentario troviamo immagini davvero molto molto forti. Basti pensare che gran parte del documentario in Iran è stato girato attraverso un telefono cellulare, proprio per cercare di tutelare il più possibile le persone, insomma, che stavano raccontando questa storia. È anche un modo per ripercorrere quella che è la storia recente dell'Iran, e soprattutto è anche nelle intenzioni del regista e della produttrice americana, per il pubblico americano, ribadire, come dice il giornalista Ankerley proprio in un passaggio del documentario, dice che c'è un'incredibile differenza tra il popolo iraniano e la leadership iraniana, tra l'altro aggiungendo che è lo stesso che si potrebbe dire degli Stati Uniti, anche perché quando questo documentario è stato prodotto alla presidenza c'era ancora Trump, e tra l'altro quando il regista e la produttrice si accingevano a viaggiare verso l'Iran, tra il maggio del 2016, magari qualcuno si ricorda, era il periodo in cui l'ex presidente Trump aveva proposto di fatto un divieto di viaggio per i musulmani. Quindi è una storia che vuole andare a smontare, insomma, tutto un certo tipo di retorica e narrazione sull'Iran, ripercorrendo la storia recente di questo paese, soprattutto attraverso le lotte per i diritti che lo hanno attraversato, a partire dalla lotta per i diritti delle donne, delle minoranze religiose, delle comunità LGBTQ, che comunque continuano a subire una repressione feroce nel paese medio orientale. Il documentario Nasrin di Jeff Kaufman, dal 10 maggio on demand su OpenDDB, distribuzioni dal basso, e prossimamente al cinema. Un saluto e un ringraziamento a Luigi Dalife di OpenDDB. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, a presto. Il regista Giorgio Diritti sul suo film Volevo nascondermi, di nuovo al cinema da giovedì 13 maggio 2021. Ben trovato, Giorgio. Ciao, sì, a voi. Un po' di tempo che non ci si sentiva, complimenti per il tuo lavoro. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? Dicendo che innanzitutto andiamo in sala, malgrado magari il momento che è sicuramente un po' difficile, ma avendo fiducia e cercando di far sì che ci siano momenti di positività, forse lo stesso Ligabue e tutto il suo percorso di determinazione e anche di lotta per riuscire a fare cose in cui crede, sono magari un buon esempio per passare questo momento un po' difficile per l'Italia. Allora, al di là di questo, presentare il film, sento che incontra la storia di una persona che sembrava sconfitta in partenza, che era in grande difficoltà nell'infanzia, emarginato, isolato, rachitico, brutto, eccetera, eccetera, che appunto per questo forse voleva nascondersi, non si sentiva inadeguato alla vita, ma che poi ho trovato per fortuna la forza di reagire, le persone intorno che l'hanno aiutato anche in questo, ed è riuscito a realizzare se stesso, a fare molto, a lasciare un segno che di cui ancora oggi noi parliamo a distanza di parecchi anni. Come era nato il progetto? Sicuramente perché quando tanti anni fa ho visto, diciamo, ho segnato i bucci, qualcosa mi era evidentemente rimasto dal punto di vista emotivo. Poi, nel periodo in cui facevo, insomma, presentavo l'uomo che verrà, o anche più di recentemente, insomma, mi è capitato di andare in quei territori per un 25 aprile, e da lì è rinata la tensione e il desiderio, insomma, di approfondire, di conoscere meglio, e man mano, diciamo, che è stato Ligabue che ha scelto me in un certo senso, perché ha la sua storia, come dicevo, le persone che ho incontrato, intervistato, che l'hanno conosciuto, cioè mi hanno man mano rafforzato nell'idea della grande attualità da un certo punto di vista di questa storia, ma anche della bellezza proprio. In fondo è un po' un brutto natropolo anche lui, che poi diventa un cigno. Quali sono gli aspetti che più ti hanno impressionato nel suo ritratto e anche nel suo percorso umano? La determinazione è sicuramente una delle cose più forti, e poi anche nella determinazione l'identità, cioè Ligabue, pur soffrendo la fame, essendo emarginato, non ha mai dipinto le cose che volevano gli altri, non si è mai adeguato, diciamo così, agli stili, alla moda, anzi la gente bruciava i suoi quadri, lo prendevano in giro perché dicevano che non era neanche capace di fare le cose bene, insomma, perché abituati a una visione ritrattista in senso tradizionale. E lui invece ha avuto la determinazione, ha creduto in se stesso, in quello che faceva, ha trasmesso lì la sua identità. E questa cosa mi sembra molto preziosa anche in una società dove si tende a omologare tutto, a far tutto a imitazione di altro. È un bel segno che ci ricorda quanto nell'unicità possiamo essere riconosciuti ancora di più che non nell'imitazione, no? Oggi, diciamo, la dinamica generale è la rappresentazione stessa di sé, è l'essere visibili e visti in quel senso, ma l'espressione di sé è potente e forte. Giorgio, con Elio Germano come avete deciso di lavorare sul personaggio? Ma abbiamo fatto un percorso in cui io ho trasferito a lui alcuni elementi che erano frutto della ricerca che avevo fatto per scrivere, insomma, di queste interviste sul territorio, anche i testi, i libri, eccetera. Poi lui ha ripreso, nel senso che alcune di queste persone le ha rincontrate, ne ha incontrate altre, ha voluto entrare in un rapporto emotivo proprio anche lui con quello che era successo. E quindi quando ci siamo trovati poi più concretamente a prossime alle riprese, poi sul set, era un po' come se parlassimo una lingua affine, cioè si è trattato certamente di avere l'attenzione a non esagerare, perché il personaggio comunque era anche abbastanza spigoloso, il rischio di cadere, diciamo, in dimensioni rappresentative di qualcosa era forte, però secondo me invece il valore, diciamo, di quello che si è costruito è proprio nel non vedere una rappresentazione di Ligabue, ma nell'essere rapito nel cinema, perché chi è lì è proprio Ligabue stesso, ecco, questo sia visivamente che conta molto dal punto di vista così dell'impatto, e sì, anche perché il mondo attorno di attuatori e figure, vedendolo così, sicuramente ha reagito con una naturale dimensione di rifiuto, di empatia, di pietà, eccetera. Com'è stata la reazione della platea internazionale a Berlino? È stata molto calda, forte, alla proiezione ufficiale ci sono stati quasi 15 minuti di applausi, quindi, ma al di là dei minutaggi che sembrano sempre un po' voler pesare le cose, la sensazione generale respirata e il rimando avuto anche nei giorni successivi, anche il giorno della cremazione, eccetera, sono stati tutti molto caldi e positivi, cioè una dimensione di apprezzamento per il senso di verità anche che si trasferisce, pur essendo raccontato in parte anche un po' come una favola. Giorgio, un abbraccio, un in bocca al lupo, ancora complimenti e a presto. Grazie a tutti, un abbraccio e abbiate fiducia, come dire, comunque che la vita trova forza e ci dà la possibilità di esprimerci. Il regista Giorgio Diritti sul suo film Volevo nascondermi, di nuovo al cinema da giovedì 13 maggio 2021. Con Alberto Valtellina, co-regista del documentario La scuola non è secondaria, al cinema da martedì 25 maggio 2021. Ben trovato. Buongiorno Federico, è sempre un piacere. Raccontaci di questo lavoro. Ma è un lavoro molto semplice. Paolo Vitali, il co-regista, ha iniziato una supplenza annuale al liceo di Bergamo. Mi ha parlato dei momenti del DAD, questi momenti surreali, e io per curiosità ho proposto al dirigente scolastico di riprendere le lezioni dall'interno, cosa che non avevo ancora visto. Con mio figlio, che ha curato la fotografia, si è rimasto una quindicina di giorni nelle aule, ci acquattavamo, cercavamo l'inquadratura giusta e rimanevamo per un 20-30 minuti per volta nelle aule, mentre gli insegnanti erano impegnati davanti al PC e all'aula vuota. Cioè, non era vuota, c'eravamo noi, era abbastanza surreale anche il momento della ripresa. La cosa curiosa è che gli insegnanti andavano avanti tranquillamente come se noi non fossimo lì, era molto interessante la cosa. Infatti il film scivola via nei suoi 45 minuti di durata, la durata di una lezione DAD, proprio perché gli insegnanti, è come se noi, diventa quasi quel mito del documentario oggettivo. Siamo riusciti primi nella storia, abbiamo creato il documentario oggettivo. Che impressioni ne hai ricavato? È stato a tratti commovente, nel senso che si rendeva conto che gli insegnanti facevano quello che non avrebbero mai voluto fare, ma facevano quello che non avrebbero mai voluto fare nel migliore dei modi, insomma, perché si rendevano perfettamente conto che al di là c'erano dei ragazzi che avevano anche bisogno di qualche cosa che non fosse solo il passaggio della nozione. E infatti c'è un momento in cui la docente di latino cita la lettera di Seneca, Lucilio, che termina con questa idea dell'afferrare il giorno, abbracciare il giorno e non aspettare il domani in qualche modo. Quest'anno scolastico andato così, che cosa comporterà secondo te? Il film nasce proprio per quello. Dura 45 minuti perché ci piace l'idea che nell'ipotesi della durata standard, classica, di un film da un'ora e mezzo, il tempo dopo la proiezione sia dedicato a una riflessione su questo. In questo senso abbiamo invitato venerdì 28 Raffaele Mantegazza e Fabio Cleto, che sono due docenti universitari, il primo pedagogista all'Università Bicocca di Milano, il secondo docente di storia culturale e anglistica all'Università di Bergamo, proprio per persone che hanno vissuto e fatto delle ampie riflessioni sul tema. Per quel che mi riguarda, io sono soltanto un occhio che è riuscito a intrufolarsi e a vedere cosa stava succedendo in quei momenti. Non ho nessun tipo di preparazione per raccontare questo, ma percepisco che il tema è importante e ampio e articolato. Alcuni aspetti palesi se ne può comunque parlare, ad esempio l'aumento della dispersione scolastica oppure gli assembramenti con risse tra giovanissimi. Sì, oppure le tre ragazze anoressiche che sono rientrate in una classe e che non mostravano nessun tipo di problema prima del periodo della chiusura delle scuole. Quello che vedo, questa è una notizia che ho saputo dopo, non ha a che fare col film, quello che vedo è che in Spagna hanno tenuto aperti i cinema, hanno tenuto aperti i teatri, hanno tenuto aperte le scuole e non hanno avuto una situazione peggiore della nostra. Noi siamo particolarmente preoccupati per qualche cosa che non è ben chiaro cosa sia la produzione, e non entro in termini politici, è proprio che sa da produrre, se non cultura, se non attenzione a quello che succederà domani ai giovani. Che percorso avete immaginato per questo documentario? Il percorso che immagino sempre, io seguo le grosse distribuzioni e arriverò probabilmente tra qualche tempo ad avere le mie 800 sale. Per il momento ho una sala a Bergamo per due proiezioni e la sala Mignona Tirano, gestita da Mattia Agostinali, con grande cinefilo, che si è lanciato in questo lavoro folle, in cui Will, per avere un film Tirano in Valtellina e per avere un film delle grosse distribuzioni vuol dire combattere, combattere, combattere. E lì la resistenza, è in quei luoghi la resistenza. Ci sono stati anche i momenti di interazione con i ragazzi e le ragazze? No, per quel che ci riguarda non ancora, siamo curiosi di vedere se quando saranno all'interno del cinema si avranno voglia di interagire, perché noi semplicemente siamo rimasti nel periodo in cui c'erano in uno spazio gigantesco, il liceo molto grande, vede normalmente 2000 persone all'interno, ce n'erano 50 quando abbiamo girato, quindi il vuoto, il deserto. E mi piacerebbe avere una risposta da parte dei ragazzi, perché per esempio un tema importante che aveva evidenziato proprio la docente di latino di cui avevo parlato prima, il problema che aveva evidenziato è che ai ragazzi non è stata data voce, e ai ragazzi da un giorno con l'altro gli si è detto adesso stai a casa, non vieni a scuola, ma non si è creato il problema, lo si è risolto lasciando a casa i ragazzi. E questo trovo che sia sbagliato. Una volta, negli anni '80, c'erano quelli che manifestavano contro la legge che era Berlinguer, poi contro la legge Moratti. Questi non hanno potuto manifestare nemmeno uno sconcerto. La scuola non è secondaria. Al cinema, da martedì 25 maggio 2021, un saluto e un ringraziamento al coregista Alberto Valtellina. Un in bocca al lupo e alla prossima! Grazie mille Federico, un saluto a tutti, buona giornata. Con Monica Maurer del Cineforum Palestina per presentare il film 1948, Creation and Catastrophe, di Alam Mutaseb ed Andy Trimlet. In diretta streaming giovedì 20 maggio 2021. Monica, ben trovata. Grazie. Il film di Ahlam, che è una professoressa di storia e lei si occupa di media, di comunicazione digitale dal 2003 all'Università di San Bernardino in California, e Andy Trimlet, che ho fatto un Master in Middle East Studies, e che mentre Ahlam ha cominciato più di 10 anni fa a fare le ricerche su questo film, Andy poi ha curato più, diciamo, la parte cinematografica. Lei per 10 anni ha fatto delle ricerche soprattutto sulla diaspora palestinese in tanti paesi diversi, situazione drammatica al momento sul campo e la molto scarsa, in parte veramente manipolativa, informazione su questo. Non si può veramente capire, avere una visione chiara del quadro senza conoscere la storia che porta alla situazione di oggi, anche se la colonizzazione della Palestina da parte dei coloni ebraici ha cominciato negli anni 20, però l'anno 1948, appunto, il tema centrale di questo film, e descrive il prezzo che la creazione dello Stato di Israele nel 1948 ha avuto per i palestinesi, cioè il sterminio, la perdita delle terre e la frammentazione del popolo palestinese che per millenni ha vissuto su questa terra, insomma la Palestina, prima occupato dai romani, poi dai ottomani, poi è stato mandato britannico fino appunto del 48. E questo racconto è affidato a persone che hanno preso parte dei evidenti allora su ambidue parti, cioè sia palestinesi che israeliani, che hanno vissuto questa esperienza e che danno testimonianza di quello che loro hanno vissuto in quell'anno e gli anni successivi del 48 sul terreno. E l'importanza di fare questo film proprio ora, e non solo perché il 15 maggio è la scadenza della giornata della Nakba, la catastrofe palestinese come lo chiamano i palestinesi, ma anche perché è in corso una fortissima offensiva, si può dire, di pulizia etnica. Ha cominciato con il tentativo di sfrattare, già va avanti questo da anni, il fatto di famiglie palestinesi di Sheikh Jarrah, che è il quartiere cuore, diciamo, della Gerusalemme Est araba, ma anche da parte non solo di coloni che sono sempre più aggressivi e sempre più armati, sempre protetto dalla polizia e dall'esercito israeliani, che sono addirittura entrati l'altra settimana nella moschea di Al-Aqsa, secondo luogo santo dei musulmani. Questo chiaramente è stato vissuto come un attacco fortissimo a un luogo che ha non solo un valore simbolico, ma che era proprio in questi giorni che c'è il Ramadan. Da lì ha cominciato anche operazioni che ci ricordano tempi molto bui, delle bande di coloni armati che marcavano le case dei arabi, scrivendo morte ai arabi. E poi ora questi giorni sapete i bombardamenti indiscriminati su Gaza, che ha fatto più di 100 morti, tra l'altro un terzo sono bambini. E poi il bombardamento, tutti l'hanno visto in televisione, di questi tre palazzi, di cui il primo e il più alto di 10 piani era quello dove c'erano tutte le agenzie di stampa, tant'è vero che tra ieri e oggi c'era una dichiarazione del centro stampa internazionale per denunciare il fatto che proprio lì il centro di formazione è stato eliminato così in questa aggressione. E anche parte di questa offensiva, diciamo, c'è anche il fatto che c'è molto scarsa informazione oggettiva. Si parla sempre dei dati di Hamas, che chiaramente hanno fatto dei danni, ma insomma in modo molto molto minore di quello che è stato fatto tra la popolazione e le case, i villaggi dei palestinesi. Solo che la grande differenza tra le tre guerre che Gaza ha vissuto, l'ultima nel 2014 e oggi, è che c'è una fortissima reazione in tutta la Palestina, la Cisgiordania, Gaza chiaramente, ma anche lì dove vivono i cosiddetti arabi israeliani, cioè a Haifa, dove poi tra l'altro è stato sparato Maisa Abdelhadi, che è l'attrice protagonista di questo bellissimo film di Mai Masri, 3000 notti, 2-3 anni fa l'abbiamo fatto vedere, perché filmava. Cioè l'eliminazione dei testimoni è un obiettivo, però ci sono manifestazioni a Nazareth, a Lidz, a Jaffa, nel sud al Beersheba o Bistabba, e in queste ore migliaia e migliaia di palestinesi dai campi del Libano e di Giordania andando verso i confini con Israele per dimostrare, alcuni si dice sono entrati, è una rabbia collettiva che unisce il popolo palestinese in questi giorni più che mai. E per questo pensiamo che questo film di Ahlam Mutaseb e Adi Zivle, cioè 148 Creation and Catastrophe, proprio in questo momento è uno strumento molto utile a capire l'origine di questa guerra, perché questo che sta succedendo in momento sta sudando in una qualcosa come quasi una guerra civile. È importante conoscere le radici e quindi vi invitiamo di prendere l'occasione a vedere il film, che sarà 24 ore giovedì 20 dal 01 fino alle 23:59 in streaming. 1948 Creation and Catastrophe in diretta streaming giovedì 20 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Monica Maurer del Cineforum Palestina. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto. Ciao. Con Stefano Guerini Rocco per presentare l'ottava edizione del Festival Orlando a Bergamo dal 14 al 23 maggio 2021. Ben trovato. Buongiorno Federico, buongiorno anche alle ascoltatrici e ascoltatori. Ricordiamo e o spieghiamo cos'è Orlando. È un festival di cinema, teatro, danza, incontri, festival internazionale a tematica queer, alla sua ottava edizione dopo un anno sicuramente non facile per tutti, ma in particolare per Bergamo, dove l'impatto emotivo e psicologico della pandemia si è fatto sentire molto forte e da subito. Noi abbiamo deciso di rimanere, in realtà anche l'anno scorso, con tutte le difficoltà del caso, abbiamo trovato delle forme per esserci, per confermare la nostra presenza a Bergamo, ma quest'anno siamo felici, anche con i cinema aperti, di poter ripartire. appunto, e ripartiamo dal cinema, cioè da quella parte di festival che più era stata penalizzata e mortificata dalle restrizioni di quella che nel nostro recupero doveva essere secondo atto di Orlando, invece poi è stato fermato a una settimana prima dell'inizio dalla seconda ondata. Noi ripartiamo dal cinema, infatti la serata d'apertura sarà dedicata a un film che è Tengo mio dottorero di Rodrigo Sepúlveda, è stato presentato all'ultimo festival di Venezia ed è un film cui teniamo particolarmente perché testimonia una certa vivacità, una certa attenzione del cinema cileno e del cinema sudamericano, diciamo in generale, nei confronti delle tematiche e delle rappresentazioni LGBT+. Penso anche a Fin de Siglo, per esempio, che era in programma nel festival nostro dell'anno scorso, o penso anche a La nave dell'Olvidio, che invece sarà presente quest'anno, film d'esordio della regista Nicole Ruiz Benavides. E poi iniziamo con un percorso che a partire da quest'anno e poi negli anni a venire, edizione per edizione, ci porterà a costruire un progetto di scoperta e di indagine sui nuovi confini del cinema queer. Qual è, se è possibile tracciarlo, lo statuto identitario del cinema queer, quali sono le prospettive, gli sguardi, le narrazioni che animano oggi il cinema queer e cosa ci raccontano di noi. Quindi abbiamo deciso in questa doppia anima del Festival Orlando, cioè da una parte le performance live, gli atti performativi, la danza, il teatro, dall'altra però anche il cinema, in questa doppia anima abbiamo deciso di mettere al centro giovani autori, giovani autrici capaci di farsi portatori, promotori, promotrici, sguardi innovatori, dirompenti, in alcuni casi anche destabilizzanti, penso per esempio a Fucking With Nobody di Annalena Auru, che quello presentato a Venezia l'anno scorso, penso a Before We Grow Old di Thomas Morris Health, che invece sarà presentato in anteprima nazionale proprio a Orlando, e penso anche a un piccolo film a cui teniamo molto, che si chiama Capana di Filippo Talavera, che è un regista e attivista della Namibia ed è il primo film a tematica LGBT+ girato in Namibia, dove l'omosessualità è ancora un reato. Quindi d'accordo anche col regista, presenteremo questo film il 17 maggio, che è appunto la giornata mondiale contro l'omolesbo-bi-transfobia. E infine, insieme, ripeto, a tutte le performance, cito Alessandro Sciarroni, cito Benjamin Khan, Collettivo Cinetico e così via, per tutte le informazioni, tra l'altro permettimi di ricordare il sito www.orlandofestival.it. Infine chiudo raccontandoti la sorpresa, la scommessa di quest'anno, che sono le coproduzioni. Orlando ha deciso di investire in senso metaforico e anche letterale sulla produzione di contenuti audiovisivi che possono appunto farsi promotori di narrazioni plurali e polifoniche, narrazioni che rispecchino lo statuto, la missione del festival, e in questo caso appunto in questa edizione presenteremo Vagli a spiegare chi è Primavera di Sara Luratti e Lucio Guarinoni, e come evento extra festival Overture di Andrea Zanoli, entrambi progetti nati da percorsi laboratoriali e performativi che negli scorsi anni hanno arricchito l'offerta del festival. Quindi sicuramente cinema, teatro e danza, ma anche comunità, inclusione, progettualità sono le parole per ripartire con questo Orlando 2021. Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori dettagli? Ribadisco il sito, che è da tenere monitorato insieme a tutti i canali social, Instagram e Facebook, perché chiaramente i cinema e i teatri hanno riaperto, ma con contingentamenti che ci portano a modificare la situazione di minuto in minuto. Il sito è www.orlandofestival.it. Il festival avrà una versione ibrida, quindi potete prenotare appunto attraverso il sito il vostro biglietto per gli spettacoli a Bergamo, si terranno in diverse location ma tutte nella città di Bergamo, oppure potete accedere alla piattaforma OpenDDB per godere dei lungometraggi. Ogni lungometraggio sarà disponibile sia appunto in presenza sia online per 72 ore ciascuno su questa piattaforma OpenDTV Distribuzione dal Basso, che è una piattaforma streaming con cui abbiamo deciso di collaborare perché sostiene le produzioni emergenti e indipendenti attraverso il sistema della donazione, che risponde molto agli obiettivi di Orlando. Orlando, ottava edizione a Bergamo dal 14 al 23 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Stefano Guerini Rocco. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, crepi il lupo, viva il lupo. Grazie dell'ospitalità. Con Stefano Pinesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino presentiamo la decima edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni dal 18 maggio al 30 giugno 2021. Ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Spieghiamo cos'è per chi non la conoscesse. Anche se è un anniversario un po' strano, insomma, per tutto quello che abbiamo passato quest'anno, siamo arrivati alla decima edizione, quindi la cifra è tonda e ormai devo dire che è un appuntamento consolidato, insomma, per tutti gli appassionati di cinema a Roma. La formula è quella di fare, in questo caso, ogni settimana un grande classico del cinema, appunto da ritrovare sul grande schermo in pellicola 35 mm. L'ingresso, come sempre, è gratuito. Quest'anno, rispetto agli altri anni, c'è qualche cambiamento, ovviamente per le precauzioni anti-Covid, per cui ovviamente la sala sarà al 50% della capienza. L'orario sarà alle 19, non più alle 21 come era stato sempre gli anni scorsi, e ci sarà l'obbligo di prenotazione. Questo malgrado l'ingresso sia sempre libero, però bisogna comunque prenotarsi sul sito di Palazzo delle Esposizioni. Quanti titoli, con che cadenza? Ovviamente rispetto agli altri anni sarà un programma un po' ridotto, proprio perché l'abbiamo messo insieme in fretta e in furia appena è stata annunciata la riapertura, per fare a tutti i costi queste edizioni di resistenza, che però è anche quella del decennale. Quindi sono in tutto solo 7 titoli rispetto agli altri anni, ma con cadenza settimanale. Quindi tutti i martedì, a partire da martedì 18 maggio, saranno in tutto 7 proiezioni, ecco. Facciamo una panoramica? Martedì 18 partiamo con La fiamma del peccato di Billy Wilder, che è il noir per eccellenza, ecco, il film che è stato poi imitato da tutti, mai eguagliato, scritto con Raymond Chandler, tratto da James Cain, che è peraltro anche l'autore del Postino suona sempre due volte, Barbara Stanwyck, la dark lady per eccellenza. Insomma, è un film che in molti credo avranno visto, perché è veramente uno dei titoli fondamentali. Però ecco, invito tutti a rivederlo in 35 sul grande schermo in versione originale con sottotitoli italiani, e fa sempre piacere. La rassegna, come è stato sempre, non segue un vero e proprio filo rosso tematico, a parte quello che, diciamo, può essere il puro piacere del cinema, per cui mettiamo insieme tanti titoli diversi, sia in termini di paesi di provenienza, sia in termini di epoche della storia del cinema, sempre più o meno tra gli anni 20 e gli anni 80. Ti cito qualche altro titolo interessante: c'è un Frantic di Polanski, forse uno dei migliori thriller degli anni 80, con Harrison Ford e Emmanuel Seigneur. C'è The Killer di John Woo, che insomma è stato poi il film di quando io e te eravamo, diciamo, quasi giovani, insomma, Federico, ha segnato un po' quella scoperta in Occidente del cinema di Hong Kong all'inizio degli anni 90. E peraltro, per inciso, sono molto felice che le persone, gli spettatori in questo periodo stanno riscoprendo In the Mood for Love al cinema, distribuito dalla sempre meritoria Tucker Film. Ecco, In the Mood for Love è un altro di quei film decisivi per la scoperta del cinema di Hong Kong in Occidente. Invito tutti a vedere The Killer, anche perché poi John Woo cominciò a partire dagli anni 90 la carriera a Hollywood anche. Però The Killer è un film da cui persone come Tarantino hanno attinto in modo anche spudorato, insomma, almeno quanto John Woo poi a sua volta copiava da Melville. Ecco, c'è questa veramente linea di storia del noir che passa nei suoi strani percorsi anche attraverso l'Asia. Poi ti segnalo alcuni film che hanno una vena forse più politica, ecco, c'è per esempio Anne e i lupi di Carlos Saura, che è un film che si vede poco, un film girato nella Spagna franchista che fu comunque censurato e osteggiato. C'è La terza generazione di Fassbinder, che è uno dei film veramente più ancora impressionanti di Fassbinder, che è sulla stagione del terrorismo. Poi c'è una Beautiful Laundrette, che è invece un classico, uno dei primi film che ha reso celebre Stephen Frears, e che è un po' un ritratto di quell'Inghilterra thatcheriana degli anni Ottanta. Poi il programma si conclude con It's All True, che invece forse qualcuno lo ricorderà, era uscito nei primi anni 90 ed è un documentario che ricostruisce questo film perduto di Orson Welles, uno dei tanti purtroppo film perduti di Orson Welles. Nel documentario ovviamente c'è una parte intera di film sopravvissuto, e rivedere anche dei semplici frammenti di Orson Welles è sempre un'esperienza quasi mistica per ogni cinefilo che si rispetti. Una curiosità, nel corso del tempo stanno aumentando le pellicole ritrovate e restaurate? C'è sempre un grande lavoro di recupero e di restauro. È cambiato negli anni, come sappiamo, le modalità del restauro, perché ormai qualsiasi restauro viene presentato poi in digitale, quindi sia la lavorazione, ma soprattutto è rarissimo che le cineteche in tutto il mondo facciano anche un ritorno in pellicola del lavoro di restauro, ma di solito poi si presenta il DCP, che va benissimo ovviamente. Insomma, noi continuiamo con questa nostra battaglia donchisciottesca per la pellicola 35 mm, sarebbe bello, soprattutto quando si hanno di qualche film ancora i materiali originali, tipo il negativo macchina da risistemare, eccetera, riuscire a tirare anche una pellicola di questi restauri, ma capisco che, essendo una cosa anche economicamente impegnativa, è una cosa che purtroppo ormai non fanno pochissime cineteche. C'è anche da dire un'altra cosa sulla politica del restauro in generale, detto fra noi, Federico, che spesso vengono presentati come restauri delle operazioni che sono essenzialmente delle digitalizzazioni, cioè di fatto film di cui c'era soltanto la pellicola sono stati digitalizzati, ma dietro cui non c'è un vero e proprio lavoro di restauro, per cui anche sulla politica dei restauri esistono delle contraddizioni. Spesso si tende anche a restaurare sempre gli stessi film, perché magari ci stanno alcuni titoli con cui si riesce ad avere un sostegno pubblico, invece ci stanno tanti grandi titoli che magari fanno più fatica ad avere un recupero, ecco. Però detto questo, la strada che seguiamo noi è più sul magari, ecco, recuperare la copia d'epoca e rivivere anche l'emozione a volte, per esempio, del Technicolor d'epoca, che è un formato che è veramente un'esperienza incredibile rivedere le pellicole Technicolor. Ecco, quella è una cosa che il digitale probabilmente non riesce e ne riuscirà a eguagliare. Certo, poi noi chiediamo sempre in questo caso al pubblico sempre quel margine di tolleranza, perché lavorare ancora in pellicola non hai mai quella pulizia asettica che ha l'immagine digitale, ma bisogna avere un po' di più di, chiamiamola, pazienza estetica verso il piccolo graffio, il piccolo salto, però è una pazienza che viene ripagata, ecco, tutto qua. Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Anche per le prenotazioni c'è il sito del Palazzo delle Esposizioni, quindi www.palazzoesposizioni.it, lì appunto c'è sia tutto il programma, orari e appunto tutte le informazioni per la modalità d'accesso, le prenotazioni. Ovviamente la sala è al 50% della capienza, ovviamente bisognerà indossare la mascherina, ma insomma come tutte le sale attive in questo periodo. Decima edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 18 maggio al 30 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, uno dei curatori della rassegna. Un abbraccio e a presto. Grazie Federico, a presto, ciao a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.